Questa è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech. Abbiamo ascoltato un estratto dal nuovo lavoro di The Bug, un autore che abbiamo conosciuto già in passato per le sue atmosfere scure, quasi industriali, insieme a Ghost Dubs, un disco che si intitola Implosion, uscito il 14 novembre del 2025. Andiamo avanti con il nuovo singolo di Pi Corner Audio. Thank you. E questo era Pie Corner Audio, si chiama Trust the Process, la traccia è il lato A di un singolo distribuito sulle piattaforme da pochi giorni. Andiamo avanti spostandoci verso territori decisamente diversi, più vicini al drum and bass, con il nuovo lavoro di Jay Kenzo e Basic Rhythm. ricordo che siete sempre all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network, che potete ascoltare sia in streaming che in DAB, la nuova tecnologia di digitale terrestre delle radio, presente in tutte le autoradio distribuite dopo il 2017, una tecnologia che andrà col tempo a rimpiazzare la tradizionale FM e quindi è già presente su molti apparecchi e su molte autovetture. Andiamo avanti con ASC Magnetic Fields, che ci sposta su un drum and bass molto liquido. Listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Qui a Oxygen con il suo nuovo lavoro Magnetic Fields, ma andiamo avanti con Rolando Simmons, un album che abbiamo avuto già occasione di ascoltare alcune settimane fa, che si intitola Animatronics. This is Oxygen. e dopo le atmosfere di Rolando Simmons abbastanza sperimentali, ci ascoltiamo invece uno dei brani che Carl Finlove ha distribuito come singolo sulle piattaforme nel corso del 2025, che si chiama Woven. Carl Finlove. e vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Oxygen, la trasmissione di musica elettronica ideata e condotta da Amptech. Andiamo avanti con un altro autore dopo Carl Finlow, che ci ha portato in territori elettro abbastanza acidi, con Dino Sabatini. Dino Sabatini che ha fatto uscire un lavoro che si chiama Tyrants. You're listening to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo era Dino Sabatini a Oxygen, che ci ha portato in territori decisamente più techno dopo alcune escursioni verso il drum and bass alla jungle. E andiamo avanti ancora con una traccia decisamente orientata a questa direzione. Si tratta del nuovo lavoro di Decoder. Thank you. questo era Decoder qui dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, in voce con voi Amptech per la puntata odierna di Oxygen. È già sotto la mia voce il remix Sorcery Acid Mix di Agartha a cura di Wata Igarashi. siete sempre all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Dopo Wata Igarashi ci spostiamo su altri territori. Lui è Oliver Rosman, il suo ultimo lavoro si intitola Delusion of Control, uscito su Semantica Records.